Avventurieri, davanti a voi si trova un antico pozzo magico, alimentato da un codice incantato. Ma attenzione! Da quando il nucleo si è spento, qualcosa si è inceppato. L'incantesimo non funziona più come dovrebbe. Quindi vediamo un po' cosa possiamo fare. Ecco ciò che sappiamo. Ogni metro del pozzo è segnato da una tacca e numerato a partire dal basso. Questo ci permette di sapere che l'altezza del pozzo è di 30 metri, mentre il livello dell'acqua si trova alla tacca dei 20 metri. Per raccogliere l'acqua viene utilizzato un secchio legato a una corda magica, che può allungarsi a piacere. Facciamo quindi un ragionamento preliminare. Quanti metri deve essere lunga, al minimo, la corda per far arrivare il secchio almeno fino al livello dell'acqua e permettere la raccolta?